Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e buon inizio settimana. Buongiorno. Allora, Deborah, ti devo dire subito che ti regalo il 22% di vita in più. E come, dove me lo hai trovato? Già questo lo sospettavo, regalone. Perché stare vicino a me è già sempre una garanzia. Però un elisir di lunga vita. C'è uno studio australiano che per 15 anni ha analizzato la relazione tra aspettativa di vita e amicizia. Ottimo. L'ho letto ieri proprio sul Corriere in un bellissimo articolo. E, bene, sembra che le amicizie tra donne che condividono, sai, tutti i problemi, ma anche i successi, gli insuccessi, e quindi si dedicano del tempo, si traducono in un aumento della, non solamente della vita, ma anche della qualità di vita. E quindi che è totalizzato nel 22%, no? Come percentuale. Però c'è il lato, no? Un pochino l'altro lato della medaglia. Da né, come si dice a Milano, pochi. Allora, quindi, dopo aver letto questa notizia, due cuori e una capanna? Sì, certo, ti dico che dopo aver letto questa notizia il ministro del welfare, Giuliano Poletti, che salutiamo perché ormai è diventato un grande amico di Cuore Denari. Devo dire che è un tuo fan, sì, io l'ho visto a Montepulciano. Non lo so, non credo, no, mi sa. Sì, sì. Aveva un atteggiamento molto professionale, ha già cominciato a prendere appunti e ha già pensato di mettere mano di nuovo al tema pensioni in Italia, ad allungare ulteriormente la vita lavorativa delle donne e a mandarle in pensione ancora più tardi. Quindi non bene, so. Comunque voi però fatevi un'amica, coltivate perché non funziona. Esatto. Con tra uomini e soprattutto quello tra donne che porta ad allungare la vita. Insomma, l'amicizia ci regala una longevità senza portafoglio, ma a noi va benissimo così. Con questo direi che possiamo aprire questa nuova settimana di Cuore Denari, che io anticipo già per me sarà un po' più breve che per Nicoletta. Ve lo dico già con un certo lasso di anticipo, con conta un certo la lasso rovescia di tempo. Esatto, intanto andiamo un po' alle notizie economiche della mattinata. La borsa, allora, c'era grande attesa per la riapertura dei mercati di questa mattina, perché ricorderete bene che lo scorso fine settimana è stato contrassegnato da numerosi fatti che chiaramente non potevano che influire questa mattina sull'andamento delle contrattazioni. Abbiamo avuto la tragedia di Nizza, ce ne siamo anche occupate con Nicoletta nella puntata speciale di venerdì mattina, e poi venerdì in serata invece il tentato golpe in Turchia. Allora, il secondo evento in particolar modo un effetto sui mercati ce l'ha avuto, perché nella nottata appunto la lira turca è precipitata ai minimi da circa 7-8 anni sul dollaro, per poi recuperare questa mattina. Sui mercati azionari invece non abbiamo visto, almeno in avvio quest'oggi in Europa, un impatto particolare. Abbiamo avuto un balzo abbastanza deciso nei primi minuti di contrattazione per gli indici europei, che adesso invece rallentano tutto il passo, però sono positivi. Abbiamo Parigi in rialzo dello 0,13%, Francoforte guadagna lo 0,10%, Londra più 0,31% e Milano in rialzo sul FTSE MIB dello 0,26%. Andiamo un po' a caccia di notizie. I titoli con le crescite più consistenti sono Banco Popolare più 2, Fiat Chrysler più 1,81%, bene risparmio gestito di Azimut più 1,76%, poi cresce di un punto e mezzo anche Telecom Italia, anzi più 1,6%, è scattato il conto alla rovescia per la pubblicazione dei conti del primo semestre, la pubblicazione in calendario il 26 luglio, e il presidente del gruppo Giuseppe Recchi nei giorni scorsi ha indicato che i numeri parleranno da soli, per cui il pronostico è che saranno dei buoni conti. C'è già, come dire, qualche effetto della cura portata avanti dall'amministratore delegato Flavio Cattaneo, e quindi vedremo un po' che cosa succederà proprio quando questi conti verranno pubblicati. Stanno andando bene i titoli del settore bancario, stanno recuperando circa un punto e mezzo alcuni titoli delle banche popolari, va bene anche STM più 1,30. Monte dei Paschi questa mattina è già sull'ottovolante, il titolo è partito bene, adesso ha ribruciato tutto, perde circa un punto, è andato già anche in asta di volatilità, ha fatto un pochino di fatica a fare prezzo, come sapete c'è in ballo la questione molto importante della cessione delle sofferenze. Allora, noi peraltro di Monte dei Paschi parleremo nella seconda parte della trasmissione, perché affronteremo il tema del rimborso delle obbligazioni, degli obbligazionisti, delle cosiddette quattro banche risolte a novembre. Avremo con noi il presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Salvatore Maccarone, che ci spiegherà la procedura che sta partendo e verrà gestita proprio dal fondo. Ma c'è anche un bel gruppo di obbligazioni Monte dei Paschi in circolazione, sottoscritte da molti piccoli risparmiatori, e su queste con un esperto di Consulti che faremo il punto della situazione. Gli altri titoli in calo, tutti quelli del lusso, sono Moncler perde un punto, Luxottica meno un punto, Yux Net-a-Porter meno 0,8, poi c'è un calo di circa lo 0,8% anche per Recordati, CNH, Salvatore Ferragamo in ribasso di mezzo punto percentuale. Tanto per completare il quadro, segnalo che questa mattina è stata chiusa la borsa giapponese, e tra i temi appunto della settimana dal punto di vista finanziario che dovremo tenere sotto stretta osservazione abbiamo la nuova riunione della Banca Centrale Europea, con tutti i chiari di luna che abbiamo anche post Brexit, ci si attendono quantomeno delle anticipazioni su altre iniziative che Mario Draghi potrebbe prendere di ulteriore stimolo monetario all'economia. C'è poi la novità appunto di Cairo, che ha vinto la partita su RCS. Vi segnalo anche alcuni di quelli che saranno i temi della settimana. Abbiamo le nuove previsioni economiche del Fondo Monetario Internazionale e un'altra raffica di trimestrali dagli Stati Uniti, dopo che quelle finanziarie sono andate molto bene settimana scorsa. Nei prossimi giorni rassegneranno i dati Goldman Sachs, Microsoft, American Express, Intel, Morgan Stanley e General Motors. Andiamo al nostro piccolo approfondimento di oggi. Allora, ha ricevuto qualche bolletta da poco, Nicoletta? Non mi far parlare, guarda. Cioè che ce ne hai una, guarda, per capello, sì. Stamattina. Cioè, ha dei dentini canini che si sono affilati e allungati. Però quel tema là che tu adesso non diciamo, che però purtroppo molti ascoltatori, molti cittadini, molte famiglie, molti consumatori conoscono molto bene, io direi che prima di andarmene in vacanza ti togliamo il sassolino, sì, nella, guarda, scarpa. Perché stanno cominciando veramente a stancare questi operatori della luce e del gas che continuano a mandare questi maxi conguagli. Ogni volta devi attivare la procedura di contestazione di questo modo. Molto spesso le famiglie hanno ragione, sono dei conguagli fatti su consumi presunti. No, anche... basta, adesso mi metto ad urlare come fa Oscar Giannino, lo dobbiamo invitare. Basta, perché non se ne può davvero più. E più li denunci questi comportamenti e più vanno avanti imperterriti, mettono paura alle famiglie che si vedono arrivare queste bollette. Pazzesco. Che hanno dell'incredibile e niente. E quindi Noi rassicuriamoci, perché ci scrive Bea: siete due donne splendide, vi aspetto ogni mattina con gioia. Meno male, e quindi, guarda, dai, almeno ci tiriamo sul cuore. Allora, un po' con meno gioia sarà arrivata invece in questi giorni a casa di molte famiglie italiane la bolletta con la luce, con questa nuova simpatica voce che aspettavamo, no? Le prime bollette della luce con inseriti i 70 euro del canone Rai. In realtà vanno pagati 10 euro al mese, come sappiamo, ma siccome la procedura doveva partire a gennaio è partita a luglio, si sono presi tutto l'arretrato, ovviamente. Allora, e questa è già una cosa che... Sì, perché 10 al mese è un conto. 70 a luglio, quando devi partire per le vacanze, ti disturbano un po' di più. Ma non c'è solo questo, è che la voce in bolletta non è che sia facile proprio a trovarsi, è praticamente invisibile, per non dire introvabile, e lo hanno subito segnalato alcune associazioni dei consumatori, e noi questa mattina abbiamo preso la prima, che si è immediatamente appunto sbrigata a segnalare questo comportamento poco trasparente, ma che già in realtà loro immaginavano. Allora saluto e ringrazio per essere con noi Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori, benvenuto. Buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. Allora, voi avete già fatto le pulci alle bollette arrivate in casa appunto di qualche famiglia, e avete detto nella prima pagina l'unica pagina che il consumatore solitamente legge non vi è traccia del canone RAI, né nel riepilogo delle spese, né nel grafico a torta dove si vede la scomposizione dell'importo, compare la scritta abbonamento TV. E dunque dove la ritroviamo, Antonelli, questa voce? Allora, nella bolletta che abbiamo segnalato noi, a pagina 4, nella famosa specifica complicatissima, perché noi sappiamo benissimo che la bolletta elettrica è uno dei misteri risolti dell'Italia, e quindi diciamo probabilmente ci saranno stati dei servizi segreti deviati a decidere come farla. E quindi diciamo, se uno mette la lente in ingrandimento, perché ci vuole tra l'altro la lente in ingrandimento, vede canone di abbonamento RAI 70 euro. La cosa divertente è che nel prospetto iniziale compare in questo caso in altre voci, e non è neanche di 70 euro, perché esatto, in questo caso hanno pensato bene. Mi fanno sconto. Sì, diciamo, cioè, ogni bolletta ha il suo famoso arrotondamento, no? Perché tu in questo modo paghi in questo caso 260, non ti fanno mai pagare 260,45 centesimi. Allora, ogni bolletta successiva è l'arrotondamento della bolletta precedente. Bene, l'arrotondamento lo mettono in altre voci, quindi tu non ti ritrovi 70 euro, ma in questo caso, ad esempio, il consumatore si ritrova 67,65 euro, quindi inimmaginabile che siano i famosi 70 euro del carnevale. Esatto, quindi magari qualcuno trova questo importo che non è neanche i 70 che si aspetta, immagina pure che sia dell'altro, no? Per cui è ancora peggio. Sì. Anche perché gli italiani ormai hanno rinunciato a cercare di capire la bolletta. Adesso è arrivata questa bolletta 2.0 che è leggermente più semplice, ma nella pagina 1, perché poi le altre pagine sono esattamente come prima, con i servizi di vendita, i servizi di rete, eccetera eccetera, gli oneri di sistema, le voci sono le più varie, e fatto sta che sono impossibili da comprendere, certo. E quindi uno si limita a guardare quanto deve pagare, e quindi infatti senta Antonelli, però allora so che come associazione dei consumatori appunto avevate chiesto che evidentemente la voce fosse ben visibile, in particolare a beneficio delle categorie più deboli, ma soprattutto per evitare che ogni operatore facesse a modo suo. Effettivamente hanno fatto tutti un po' a modo loro. Questa mattina io ancora non l'ho vista, pur essendo una fruitrice dei servizi di questa utility, tanto lo possiamo dire, vivo in Lombardia, questa è la società alla quale pago appunto luce e gas. Per esempio A2A riporta invece la voce in maniera ben visibile sulla prima pagina, parla proprio di canone di abbonamento alla televisione, 70 euro, quindi mi pare che almeno questa sia abbastanza chiara nel comportamento. E invece quali, se possiamo fare nomi e cognomi, se voi avete appunto dei documenti, Antonelli, quali sono quelle che appunto hanno fatto finire questa voce a pagina 4, in modo tale che ai nostri ascoltatori che la stanno ricevendo in questi giorni lo segnaliamo già, che la vadano a cercare, quindi siano tranquilli con il fatto che stanno pagando? Allora, stanno arrivando adesso, per cui diciamo i big che controllano il mercato, perché poi dovremmo aprire anche una parentesi sul famoso mercato libero, che mercato libero non può essere finché ci sono evidentemente compagnie che controllano ancora una quota, diciamo così, prevalente del mercato. Ancora devono inviare. Quindi in questo caso la bolletta che abbiamo segnalato noi è di una piccola compagnia del Veneto. Però i big stanno inviando in questo momento, proprio perché più sono grandi più evidentemente avevano necessità di sistemare, diciamo, tutti i dati con quelli poi forniti dall'acquirente unico, meglio dall'agenzia delle entrate che l'ha fornita l'acquirente unico, che l'ha forniti a loro, e quindi stiamo ancora aspettando i big per vedere. Però ad esempio lei segnalava prima A2A, noi abbiamo altre bollette di A2A dove è riportato assolutamente in modo più visibile rispetto all'altra, perché c'è una voce specifica del canone RAI, ma anche lì l'importo dei 70 euro non è così ben visibile come dovrebbe, insomma. Ma la verità è che noi avevamo chiesto, a questo punto dobbiamo dire, che bisognava anche diciamo accompagnare la bolletta con delle istruzioni vere e proprie, cioè cosa deve fare il consumatore che ad esempio vuole pagare la luce ma non il canone, vuole pagare il canone ma vuole contestare la luce, oppure magari aveva fatto la procedura per certificare di non possedere l'apparecchio, invece magari si ritrova lo stesso l'importo in bolletta e in realtà non era in dovere di pagare. Esatto, ecco. E noi abbiamo già dei casi, ecco. Per adesso ne abbiamo due, vi do un'anteprima. Abbiamo un consumatore che ha fatto una dichiarazione di non possedere la TV, l'ha fatta addirittura a gennaio, perché quelli diciamo più onesti si muovono addirittura in anticipo. C'era tempo fino a maggio, esatto, però ricordiamo. Non ha compilato quindi il famoso modellino previsto dall'Agenzia delle Entrate, ha cercato di rispettare tutti i termini ma ha dimenticato il codice fiscale, e quindi a questo punto gli sono arrivati 70 euro. Naturalmente lui il televisore continua a non averlo, quindi diciamo uno può andare a casa sua e verificare che il televisore non c'è, ma purtroppo in questo caso non vale, perché mentre per la ci sono due dichiarazioni, adesso non vorrei entrare nella cosa molto complicata, ma ci sono due dichiarazioni, uno è il quadro A che non ha la TV, e l'altro invece quando ci sono due utenze elettriche diversamente intestate, quindi due utenze elettriche residenziali, una alla moglie e una al marito. Allora in questo caso la dichiarazione vale per tutto l'anno e uno fa in tempo quindi a recuperare, e purtroppo la dichiarazione di non possesso invece non vale, cioè vale dal momento in cui la fai, e quindi chi la fa dopo il primo luglio Faccio notare che la bolletta arriva dopo il 1 luglio, quindi chi si accorge in qualche modo di non averla fatta, magari perché ha sbagliato, è costretto a pagare tutti quanti 100 euro, proprio perché l'agenzia delle entrate dice: ma io potevo venire a verificare a casa tua se ce l'avevi oppure no, se tu me lo dichiari adesso, io non posso verificare per il passato. Antonelli, io segnalo che questa mattina sul Sole 24 Ore c'è un articolo piuttosto dettagliato che spiega anche come funzionerebbe la procedura attualmente in vigore, che prevede che l'eventuale appunto possibilità di inoltrare una richiesta di riaccredito di questo importo qualora appunto ci fosse stato chiesto di pagarlo e invece non dovevamo farlo. Questa richiesta va inoltrata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Torino, Ufficio Territoriale di Torino, Sportello SAT, è un ufficio che una volta appunto verificata la sussistenza dei presupposti per valutare la richiesta dell'utente la trasmette all'acquirente unico, eccetera eccetera. Quindi insomma questa è la procedura un po' articolata, però vale la pena, se riteniamo di essere nella ragione, di farla. Ci ritorneremo, Antonelli. Io intanto devo ridare la linea a Nicoletta Carbone, la ringrazio per essere stato con noi. Intanto ci segnali se arrivano altre bollette un po' anomale. Grazie. Va bene, grazie a voi. E ci saluti il cagnolino, anche che stava. Era un cane, sì. Mi sono... Ma magari era lui che aveva la tosse, il petto di tosse. Allora, noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi ritorniamo subito dopo insieme. Tra poco. Cuore e denari. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti. Allora, apriamo la nostra rassegna stampa di salute con una raccomandazione, Deborah. Proteggete, proteggiamo i nostri bambini dal sole. Ah, ecco. È tassativo. Io ho fatto lo scrub ieri. Brava, brava, perché così si rinnovano il primo strato di pelle. Adesso chiederemo alla nostra esperta se hai fatto bene. Comunque, è tassativo evitare che i bambini si scottino. Perché? Perché le scottature nell'infanzia rappresentano il principale fattore di rischio per il melanoma da adulti. Parliamo di un tumore, un tumore della pelle, che negli ultimi 45 anni ha fatto registrare un aumento molto significativo. Vi do due dati. L'aumento è pari al 103%, Deborah, e questo vuol dire che 1000 casi nel 1970 sono diventati nel 2015, stimati, 11.300. Allora, pazzesco. Mi raccomando, con i bambini, grande, e fate proprio attenzione. Questo non vuol dire che il sole non faccia bene. Il sole va preso, ma con le adeguate protezioni. Perché? Perché i piccoli, nei primi 20 anni di vita, cioè quindi si arriva già ad essere già adolescenti, una persona può assumere, pensate, fino all'80% del totale delle radiazioni solari della propria esistenza. E nei primi 20 anni noi facciamo quasi indigestione di sole. Allora, ne parliamo oggi con la dottoressa Paola Queirolo, che è presidente dell'Intergruppo Melanoma Italiano e responsabile del DMT Melanoma e Tumore Cutanei al San Martino di Genova. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ho sottolineato evitare che i bambini si scottano, perché la pelle non dimentica, ha una sua memoria. Dottoressa, ai genitori all'ascolto. Allora, intanto dobbiamo dire che il melanoma è diventato un'emergenza sociale proprio perché è un tumore in continuo aumento. Siamo arrivati appunto a questi 12.000 nuovi casi all'anno in Italia, incidenza raddoppiata negli ultimi 10 anni, e l'età media di insorgenza di questo tumore continua a scendere. È il secondo tumore prima dei 40 anni e un terzo dei pazienti hanno meno di 50. Anche per i tumori che si contraggono nell'età media dei 35-40 anni, il primo responsabile come fattore di rischio di abitudini di vita sono le scottature al sole contratte proprio nell'infanzia e nell'adolescenza. Quindi la cosa più importante da fare per noi che ci occupiamo di melanoma è istruire i bambini delle scuole elementari a non scottarsi al sole. Quindi l'indicazione naturalmente si dà ai genitori, che devono utilizzare delle protezioni adeguate. Che, dottoressa, quali sono per un bambino? Allora, intanto, per un bambino, ma anche per un adolescente. Sì, poi sì. Quando crescono la crema dovrebbero darsela da sola, e speriamo di riuscire a mandare questo messaggio. Intanto questo appunto è l'oggetto della nostra campagna in collaborazione col Ministero della Salute e il Ministero di Istruzione che abbiamo fatto a livello nazionale, in cui diamo in un sito molto utile che consiglio a tutti di vedere, ci sono tutte le istruzioni, il decalogo di come si prende il sole, che è www.ilsoleperamico.it, e comunque in linea di massima ci sono i consigli sulle buone abitudini. Sì, che ma sono ce ne quelle... dia due anche lei, allora cappellino sicuramente per i bambini piccoli e non si ribellano ancora, ficcateglielo in testa e mettetegli il cappellino. Sì, sono poi cappellino, maglietto, occhiali da sole, ricordiamo, non solo al mare ma anche in montagna. Va bene, poi i bambini ogni tanto giocano e giocano anche senza maglietta, perché bisogna anche cercare poi di dare dei consigli che siano vicini anche alla quotidianità, se no le mamme e i papà non riescono a seguirli. Quindi, dottoressa, quale filtri, quale creme? Cerchiamo, per quanto riguarda le creme, innanzitutto di far capire che non esiste lo schermo totale, infatti questo è stato ben precisato e non può più essere scritto sulle creme, ma esiste un'altissima protezione che è la protezione 50+, sia per i raggi UVB che gli UVA. I bambini dopo l'anno, perché fino a un anno ricordiamo che è sconsigliato portarli al sole, possono esporsi al sole gradatamente, partendo da massimo 20 minuti al giorno e poi raddoppiando un'ora, due ore nei giorni successivi. Successivi e usando queste creme che di solito devono essere sia con uno schermo fisico che chimico. Cosa vuol dire? Che quelle sono quelle creme un po' pastose, un po' biancastre, che non piacciono un per po', niente. Brava, non piacciono per niente. Speriamo che poi si arrivi ad una crema magari meno, no? In realtà lo schermo fisico, lo solo chimico, cioè quello che la sostanza che appunto chimica, che peraltro può anche dare un pochino di allergia ai bambini la prima volta che la usano, filtra i raggi ultravioletti senza creare proprio una patina, uno schermo vero bianco. Però se uniamo lo schermo fisico siamo molto più tranquilli che il bambino è riparato dai raggi ultravioletti. Va rinnovata come sempre, tutte le creme poi vanno rinnovate, non se ne sì, anche dopo il bagno, perché poi non è che ci mettiamo la crema e ci dimentichiamo che siamo sotto il sole, quindi dobbiamo riungerli di nuovo almeno ogni due ore, ecco. anche se non fanno il bagno, ovviamente forse anche più frequentemente, perché comunque si suda, quindi le creme vengono eliminate. E ricordiamo ancora che non è indicato sul tubetto della crema la quantità da usare. Ecco, ce la dica lei. È un punto molto importante, perché per ottenere l'effetto desiderato, cioè quei 50, quella protezione 50, dovremmo usare almeno un 30 mg di crema. Che io non li riesco a visualizzare, 30 se lei non vuol mi dire fa che, un esempio. Che è un tubetto da 150, un tubetto classico di crema abbastanza medio, diciamo, in 5 applicazioni l'abbiamo terminato. Quindi ci vuole un cucchiaio di crema. Abbondante. Per un bimbetto di... Per un bimbetto che può essere più o meno grande, però comunque sia è questa la dose. Quindi anche un investimento in denari. Senta, dottoressa, volevo chiederle. Fa, ecco. No, grazie. Noi a Cuore Denari vogliamo aggiungere quell'informazione che magari è nascosto, non è immediata. Dottoressa, anche nei bambini i nei si formano, no? Nel corso della vita si formano dei nei. Lei ci ha detto adesso che il melanoma sta aumentando, sta diminuendo anche l'età di insorgenza nelle persone. Ai genitori all'ascolto che notano dei nei loro bambini, qual è il consiglio da dare? Devono farli controllare dal pediatra? Devono applicare la lettera dell'alfabeto? Quali sono i segnali che devono insospettirci? Allora, intanto l'incidenza di melanoma nei bambini è veramente bassissima, sono eventi rari, quindi direi di la preoccupazione tranquillità. Non deve certo. essere quella certo di individuare un melanoma in un bambino, ma deve solo essere quella dell'educazione. E comunque se ci sono dei nei o congeniti o acquisiti nei primi anni di vita, bisogna appunto innanzitutto far vedere il bambino da un dermatologo, che indica poi con che frequenza deve essere seguito nel tempo in base a tipi di nei che ha. I genitori possono controllarlo e capire se ha un aspetto non bello, non regolare con la regola della BCDE, che è la regola in cui si valuta la simmetria, cioè dividendo la lesione in due, le due parti che si formano non sono speculari. La regola della dell'alfabeto l'abbiamo ripetuta tante volte e i nostri ascoltatori ce l'hanno sul sito, quindi il messaggio di oggi è: attenzione, la pelle non dimentica, le scottature vanno evitate soprattutto nell'età fino nei bambini, come proteggendole, non abbiate paura a mettere la crema, ce ne vuole parecchia, e a rinnovare l'applicazione. Se vedete dei nei sospetti, parlatene col vostro pediatra. Aggiungerai un punto fondamentale: che più della crema è importante che nelle ore centrali i bambini non vengano proprio esposti al sole, cioè tra le 11 e le 3 almeno, nel nostro paese, e quindi invitarli sempre a cercare l'ombra di una tettoia, l'ombra dell'ombrellone, insomma, proprio evitare l'esposizione diretta nelle ore più calde. Grazie dottoressa Quairolo per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata. Grazie a lei. E passiamo alla seconda notizia della nostra rassegna stampa: pedalare riduce il rischio di ammalarsi di diabete, e più si pedala più si allontana la malattia, con effetti positivi che si ottengono anche iniziando in tarda età, dopo i 50 anni. E questo è il risultato di una ricerca molto interessante che commentiamo con Pierpaolo De Feo, direttore del Curiamo, Centro Universitario Ricerca Attività Motoria all'Università di Perugia. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, Nicoletta. Professore, allora, la pedalata allontana il diabete. Come mai proprio la bicicletta e non il semplice cammino? Che cos'ha di particolare la bici? Lo studio è stato eseguito per il ciclismo, ma anche il semplice cammino ha lo stesso beneficio. Il motivo per cui utilizzare gli arti inferiori significa prevenire il diabete è presto detto. In pratica noi abbiamo il 70% delle masse muscolari distribuite proprio agli arti inferiori, e il muscolo è la fonte più importante di distribuzione dello zucchero da parte dell'ormone insulina. Come sa, il diabete è una malattia che è quello più comune, cioè il diabete tipo 2 di cui si parla nella ricerca. È una malattia che è causata da una ridotta attività dell'azione dell'insulina, perché nel muscolo c'è un pochino troppo grasso, di conseguenza c'è una difficoltà all'ingresso dello zucchero. È chiaro che se noi muoviamo il muscolo, inferiori, esatto, andiamo a utilizzare prima il grasso e quindi liberiamo posto, ci sono proprio dei canali che trasportano il glucosio quando manca il grasso nel muscolo e quindi c'è bisogno di energia, e lo zucchero dal sangue passa nel muscolo e la glicemia si abbassa. Quindi pedalate o camminate, o dedicheremo una puntata proprio per le persone con diabete prima delle vacanze, inviteremo il professor De Feo per darci le raccomandazioni. Grazie professore, noi andiamo a sentire il nostro GR, torniamo subito dopo insieme. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovate in diretta. Allora, come vi ha anticipato Nicoletta nelle anticipazioni, appunto nel corso del giornale radio, si avvia la procedura per l'indennizzo dei cosiddetti bond holder, gli obbligazionisti delle quattro banche finite in risoluzione a novembre. Lo sapete bene, abbiamo parlato tante volte, prive prove tecniche praticamente di bail-in all'italiana. Allora, la procedura sta partendo, come vi dicevo, lo ha reso noto l'istituzione che in via primaria è chiamata a gestire le procedure di rimborso, vale a dire il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, un'istituzione della quale ci capita di parlare molto spesso. A questo fondo la legge, la 119 del 2016, ha affidato la gestione del Fondo di Solidarietà a favore dei sottoscrittori dei famigerati bond subordinati di Banca Marche, Banca Etruria, Cari Chieti e Cari Ferrara finite in liquidazione. Peraltro Proprio ieri sulle Sole 24 Ore si faceva il punto nel pezzo di Luca Davi e Marco Ferrando dell'asta appunto a cui finirebbero le Good Bank. Entro mercoledì dovrebbero arrivare appunto le proposte vincolanti proprio per acquisire gli asset delle banche sane, della parte sana praticamente delle banche finite in risoluzione. Allora, tornando ai nostri obbligazionisti, la procedura predisposta dal fondo interbancario è interamente informatizzata. Il fondo ha predisposto un modulo standard disponibile sul suo sito internet a partire dal prossimo 22 luglio. Allora, cosa dovranno fare i risparmiatori interessati all'indennizzo? Intanto ascoltare stamattina Cuore e Denari, perché diamo tutte le informazioni per poter fare la richiesta per ottenere il ristoro, l'indennizzo e il rimborso, ma tutte le notizie che vanno trasmesse correttamente. Questa mattina ha accettato di spiegarcele direttamente il presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che siamo molto contente di avere con noi, il professor avvocato Salvatore Maccarone, che ha la responsabilità del fondo già dal 2014. Avvocato, buongiorno, benvenuto e grazie di essere a Cuore Denari. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Allora, ricordiamo prima di tutto il numero verde per gli ascoltatori che volessero avere delle informazioni in diretta all'800 24 00 24. Avvocato Maccarone, allora intanto dobbiamo ricordare che il percorso che viene introdotto per i detentori dei bond subordinati è chiaro, perché c'è una procedura diretta, un ristoro automatico per un ampio gruppo di risparmiatori, e poi c'è la seconda opzione per coloro che non appunto finiranno in questo primo gruppo, la seconda opzione è di ricorrere all'arbitrato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, destinato appunto a chi rimane fuori dalla procedura diretta, salvo poi la possibilità per i clienti dell'obbligazione di rivolgersi alla giustizia ordinaria. Ma andiamo alla procedura che gestisce il Fondo di Solidarietà, gestito a sua volta dal Fondo Interbancario. Avvocato, allora, questo fondo di solidarietà pagherà un indennizzo pari all'80% di quanto il risparmiatore ha speso, investito per acquistare i bond subordinati delle quattro banche finite in risoluzione, e questo indennizzo è naturalmente destinato a quegli obbligazionisti che rispettano una serie di parametri stabiliti dalla legge. Prima di ricordare queste condizioni che occorre rispettare per avere diritto all'indennizzo, le chiedo, Presidente, avrebbe mai immaginato una messa alla prova di questo tipo per il fondo? Ma in realtà questa è un'attività insolita per il fondo. Il fondo è nato, esiste da molti anni con lo scopo di tutelare i depositanti che abbiano un deposito presso le banche non superiore a 100.000 euro. Questo è un compito che ci viene affidato dal legislatore, estraneo alle funzioni proprie, e comunque siccome le leggi si rispettano, noi ci stiamo organizzando per questa procedura, che è sicuramente una procedura complessa, non nel modo in cui è articolata rispetto ai possessori di questi titoli, ma dal punto di vista organizzativo per quanto riguarda poi la gestione di queste domande, che saranno migliaia, che vanno quindi gestite, processate in un tempo che poi la stessa legge fissa, cioè entro 2 mesi dalla richiesta il fondo deve provvedere al pagamento, cosa che ci stiamo attrezzando per fare nei termini che la legge indica. C'è solo da augurarsi che le domande non arrivino tutte assieme, perché la capacità di processo sarà naturalmente legata alle strutture che metteremo in atto, che già stiamo organizzando ancora prima che la legge di conversione fosse emanata. Insomma, infatti il nostro obiettivo, avvocato, questa mattina è di dare proprio anche queste raccomandazioni. Le dirò che io prima della nostra diretta appunto ho sentito anche qualche associazione dei consumatori con le quali peraltro so che vi siete incontrati negli ultimi giorni, sì, e so sì, che le raccomandazioni... Abbiamo un dialogo costruttivo con le associazioni proprio in funzione di una gestione diciamo regolare ed efficiente di questo fenomeno, il cui esito è scontato, nel senso che tutti riceveranno il pagamento. Noi vogliamo farlo in modo corretto, pagare chi ha diritto di ricevere l'indennizzo e farlo in modo ordinato. Ecco, e questo con le associazioni è uno degli obiettivi che è condiviso. Qual è ad oggi, ce lo ricorda, avvocato Maccarone, la disponibilità finanziaria del fondo? Ma il fondo è alimentato periodicamente dalle banche in funzione di quelle che sono le previsioni della legge che ha recepito la direttiva comunitaria, quindi le banche ogni anno versano un certo ammontare per in il modo fondo tale interbancario fondo, intendo, cioè in questo caso lei mi sta dicendo il fondo interbancario, ma quello certo, di solidarietà invece per il ristoro degli obbligazionisti delle banche risolte? Ma il fondo di solidarietà non ha una propria dotazione patrimoniale, cioè il fondo attinge alle sue risorse per effettuare i pagamenti, quindi il fondo di solidarietà è una struttura nominale che è stata, la cui gestione è stata attribuita al fondo, ma anche il suo finanziamento è attribuito al fondo, quindi tutte le risorse che saranno necessarie per il pagamento, il rimborso agli obbligazionisti saranno attinte dal fondo alla dotazione che si sta costituendo via via per le finalità istituzionali del fondo, cioè la tutela dei depositi. Naturalmente tutto quello che uscirà per finalità diverse poi sarà ricostituito dalle banche che dovranno entro il termine fissato dalla legge, cioè fino al 2024, aver raggiunto un certo plafond. Quindi le somme saranno, non ha un'autonomia patrimoniale, ecco, è semplicemente una struttura organizzativa che si alimenta con i mezzi che il fondo ha per altre finalità. È l'intermediario praticamente tra il fondo interbancario poi e le persone che richiederanno i rimborsi. Allora andiamo alla procedura di indennizzo, avvocato Maccarone, degli obbligazionisti delle quattro banche oggetto di risoluzione. Ricordiamo che stiamo parlando di circa 10.500 obbligazionisti con in mano obbligazioni per un valore di circa 329 milioni di bond, ora praticamente il valore in realtà non c'è più e sono appunto bond azzerate. Allora, spieghiamo i criteri. Il primo riguarda innanzitutto la data di sottoscrizione di acquisto dell'obbligazione. Quando deve essere stato fatto? Dunque le obbligazioni che sono oggetto di questo rimborso devono essere state acquistate prima di una certa data e essere detenute alla data in cui le banche sono state messe in risoluzione. La prima data è il 12 giugno 2014 e la seconda data è il 22 di novembre, nel senso chi ha acquistato prima del giugno 2014 deve ancora aver avuto quelle obbligazioni alla data del 22 novembre 2015. Questo è dal punto di vista della scansione temporale. E poi, premesso questo, ci sono una serie di documenti che la stessa legge ha indicato e che chi richiede il rimborso deve certo, produrre. Altri parametri anche da rispettare, no, avvocato Maccarone? Per esempio il patrimonio mobiliare, di quanto deve essere? Il patrimonio mobiliare deve essere inferiore a 100.000 euro oppure il reddito complessivo di chi chiede il rimborso inferiore a 35.000 euro. E quindi ricordiamoci. Circostanze che noi non siamo in grado di accertare in modo autonomo, ma vengono dichiarate da chi richiede rimborso con una dichiarazione che è fonte di responsabilità. Sono con un'autocertificazione. Dichiarazioni che noi certo. conosciamo. Sì. Allora, dal 22 luglio troveremo sul sito internet del Fondo Interbancario appunto troveremo la modulistica predisposta dal fondo e che va adeguatamente compilata. Ci sono 6 mesi di tempo dall'inizio di luglio, quindi dal 3 luglio dice la legge, ma se il modello disponibile dal 22 immagino che poi prorogherete anche un attimo la possibilità appunto per l'invio, ma insomma dal 22 luglio c'è la modulistica. Che tipo di domande sono presenti su questo modulo, avvocato Maccarone? Dunque, il modulo lo stiamo allestendo e quindi sarà pronto per la data che lei ha indicato, ma è semplicemente un riepilogo di quello che la legge richiede, in maniera tale che chi vuol fare la richiesta di rimborso trova nel modulo già una indicazione ordinata dei requisiti. Tra l'altro questo è uno dei meccanismi che può essere utilizzati, quello di farlo per via informatica, potrebbe farlo anche in una forma diversa, attraverso una raccomandata, certo. Ma insomma noi ci auguriamo che si utilizzi questo perché velocizza un po' una maggiore certo, facilità di processo e sono documenti abbastanza precisi, nel senso che non dovrebbero esserci dei dubbi su quello che occorre. Naturalmente occorre la collaborazione della banca che ha venduto i titoli, nel senso che il portatore che chiede il rimborso deve ricevere dalla banca al alcuni documenti, si dice il contratto d'acquisto, il modulo di sottoscrizione, l'attestazione di eseguito dell'ordine di acquisto, poi ci sono, c'è una copia del documento di identità e una procura se l'istanza arriva tramite le associazioni dei consumatori oppure un legale. Perché immaginiamo che molti appunto si avverranno anche dell'assistenza delle associazioni dei consumatori, quindi ribadiamo molto chiaramente, Avvocato Maccarone, che la procedura va fatta avendo come interlocutore interfaccia la vostra istituzione, la vostra figura, non è la banca che si incarica della gestione di questo, tra virgolette, reclamo o richiesta appunto di indennizzo. Bisogna fare tutto con il fondo. È una scelta del portatore, lui potrebbe decidere di scegliere strade diverse, per esempio l'arbitrato nel momento in cui poi sarà disciplinato. Esatto, non prima di settembre, presumibilmente, infatti. Senta, avvocato, la procedura è gratuita, ci sono degli oneri amministrativi di cui si deve incaricare? Non ci sono oneri, quindi è un noi confidiamo di riuscire a farlo abbastanza rapidamente. In realtà non sappiamo ancora quale sarà l'impatto. Noi ci stiamo organizzando, strutturando con un assetto organizzativo pressoché nuovo, perché noi appunto, siccome facciamo cose diverse, adesso abbiamo questo compito ulteriore da assolvere, vogliamo farlo bene e quindi ci stiamo organizzando per questo. Proprio in virtù di questo, avvocato Maccarone, allora, ribadendo il fatto che so che avete incontrato le associazioni dei consumatori con cui avete un filo diretto, in particolar modo con la portavoce delle quattro Good Bank, adesso Donata Monti, che gestisce tutte le relazioni appunto fra tutti gli attori chiamati in causa in questa partita così complicata. Ecco, per voi un esperimento nuovo, lei ci diceva, che criticità possibili siete pronte ad affrontare? Perché immaginiamo che la casistica anche dei risparmiatori che chiederanno l'indennizzo è molto ampia, non so, cointestazioni magari di conti titoli, sì, ecco. Sì. Esatto, qui ci sono alcune situazioni che potrebbero essere concretamente verificate, che noi immaginiamo semplicemente sulla base dell'esperienza potrebbero esserci stati, per esempio, oltre alle ipotesi di cointestazione, potrebbero esserci state delle costituzioni in garanzia di questi titoli, potrebbero esserci state delle successioni ereditarie, delle cessioni, quindi c'è una casistica che noi immaginiamo in linea teorica e che poi dobbiamo sperimentare concretamente, però anche su questo noi stiamo facendo una sorta di anagrafe preventiva delle situazioni possibili in modo da prepararci già poi per affrontarle. Naturalmente se vi fosse una situazione che richiede ulteriori approfondimenti, questi saranno poi da parte della struttura richiesti a chi fa la domanda e quindi si arricchirà, diciamo, la documentazione oppure le informazioni di quello che serve per effettuare un pagamento corretto. Certo. Ecco, questo è una cosa a cui noi teniamo molto, cioè vogliamo adempiere questo impegno, vogliamo farlo bene, vogliamo dare il rimborso a chi ha diritto di riceverlo e quindi nel sistema complessivo delle norme che sono state emanate questa possibilità esiste, quindi ognuno deve fare la sua parte. Esatto, diciamo. Allora intanto diciamo che la raccomandazione è: fate con calma, inviate la domanda correttamente per evitare che poi magari venga respinta o in qualche maniera contestata e vi obblighi questo a doverla ripresentare di nuovo, anche perché se viene presentato tutto correttamente, se i requisiti ci sono, il fondo, mi pare di aver capito, avvocato Maccarone, che rimborsa, indennizza, ristora in tempi ragionevoli, abbastanza rapidamente. È così. Tutti saranno pagati, il termine che appunto ci è stato assegnato sono 2 mesi, capita tra l'altro in un momento così un po' a ridosso delle ferie di tutti, ma insomma ciò nonostante noi ci stiamo organizzando per rispettare il termine. Naturalmente i 2 mesi decorrono dalla data in cui la domanda sarà fatta, lo Stato non ce ne sono ancora, ma è verosimile che non siete ancora partiti. Magari la richiamiamo, avvocato Maccarone, a settembre, quando la procedura sarà definitivamente partita, così faremo qualche dato in più, qualche istruzione in più per i nostri ascoltatori. Le auguro intanto buon lavoro, buone vacanze, intanto in bocca al lupo per questo impegno. Grazie, speriamo che tutto fili liscio. Grazie per questa opportunità di chiarire come le cose si faranno. Grazie molto, avvocato Maccarone. E gli ultimi minuti di tempo li vorrei dedicare invece a Matteo Trotta, vice direttore dell'ufficio studi di Consultic, che salutiamo. Buongiorno a tutti. tutti. Perché questa società, una società di consulenza indipendente, della cui consulenza appunto ci avvaliamo molto spesso anche a Cuore Denari, non solo in tante trasmissioni, molti mesi fa aveva elaborato uno studio molto dettagliato sulle obbligazioni subordinate in circolazione targate Monte dei Paschi, delle quali si è parlato molto naturalmente, perché qua le quattro banche risolte hanno fatto dei gran danni, come sappiamo, ma chiaramente queste obbligazioni subordinate di Monte dei Paschi in circolazione hanno un importo molto più ampio e voi ne avete appunto analizzate molto nel dettaglio. Ci racconta in qualche minuto che cosa avete scoperto, appunto, che tipo di suggerimenti possiamo dare a quei risparmiatori che ne hanno in portafoglio e che magari, alla luce anche delle ultime notizie che si continuano a raccontare su Monte dei Paschi, adesso in questi giorni abbiamo un quadro che ci appare più tranquillo, ma che si sono magari preoccupati di fare la stessa fine degli obbligazionisti delle quattro banche risolte. Trotta, le do palla libera naturalmente di raccontarci quello che ritiene. Allora, in questo momento Monte dei Paschi ha 12 titoli obbligazionari di natura subordinata. Ovviamente cerchiamo di circoscrivere il problema alla natura subordinata dei prestiti obbligazionari presenti sul mercato. Trotta, mi scusi, per caso ha un viva voce o ha una cornetta? No. Perché senti un po' ovattato, ma comunque prego. Ecco, dicevo, ci sono 12 titoli obbligazionari subordinati presenti sul mercato. È necessario fare una specifica anche all'interno della categoria dei bond subordinati. Ce ne sono 10 cosiddetti subordinati classici e 2 che vengono in gergo definiti junior subordinati, cioè quelli più pericolosi, perché nel procedimento di bail-in sono i primi ad essere diciamo così risucchiati e convertiti in capitale. Allora, la situazione per quanto riguarda questi bond è abbastanza difficile. Sono, per chi ha una quotazione, nelle ultime settimane abbiamo registrato fortissime discese, in particolare su questi due bond junior subordinati. Di questi due bond, purtroppo, ce n'è uno che ha un ammontare emesso di oltre 2 miliardi, se consideriamo che il debito subordinato in circolazione è pari a 5 miliardi, diciamo che quasi il 50% è rappresentato da questa emissione obbligazionaria che scade il prossimo maggio 2018. E peraltro è l'unico che ha un taglio da 1000 euro, per cui voi presumete che sia stato collocato presso molti piccoli risparmiatori. Esattamente, l'unico bond è rimasto con un taglio minimo pari a 1000 euro ed è molto probabile che questo bond sia presente nei portafogli di molti risparmiatori. C'è da dire una cosa, che rispetto ad altre emissioni obbligazionarie subordinate, questo è un bond che non è scambiato sui mercati, su piattaforme come ad esempio l'Euro TLX, ma è un bond abbastanza illiquido che dove tra virgolette viene quotato su una piattaforma interna del Monte dei Paschi. In questo momento ha una quotazione intorno ai 65/67, quindi con uno scarto rispetto al valore di rimborso di circa il 35%. Bisogna ricordare un aspetto per quanto riguarda il debito subordinato. Negli anni precedenti, in particolare a partire dal 2012, il Monte dei Paschi si è si è preoccupato di rimborsare gran parte del proprio debito subordinato avente le medesime caratteristiche di questo bond, che avevano un lotto minimo pari a 100.000 che presumibilmente erano in mano ad istituzionali. Stiamo parlando di 9 tranche obbligazionarie per un ammontare di diversi miliardi di euro. L'unico bond che è rimasto sul mercato con questo grado di rischio è proprio quello con un lotto minimo pari a 1000 euro. Ecco, questo ci tenevo a dirlo per fare un po' di cronistoria. Certo. Ora, senta Trotta, io devo stiamo chiudendo, le posso dare a malapena un minuto di tempo. Allora, per chi volesse, adesso non vogliamo assolutamente intimorire nessuno, noi vogliamo solamente fare un punto della situazione alla luce anche di un'esperienza un'esperienza pregressa che è stata un po' dolorosa per alcuni risparmiatori. Per chi volesse vendere queste obbligazioni in questo momento, la banca ricompra, nel senso, oppure succede come per Veneto Banca, Pop Vicenza, che si rifiutavano di riacquistare le obbligazioni, appunto, o le azioni? Sono situazioni diverse, non sono banche finite appunto in procedura di risoluzione, al contrario delle quattro di cui abbiamo raccontato, ma secondo lei? Allora, secondo me per piccole tranche è possibile vendere questo titolo perché anche se in perdita, è quotato sulla piattaforma interna del Monte dei Paschi, per cui ciascun risparmiatore dovrebbe chiedere alla propria banca, alla propria filiale del Monte dei Paschi di valutare, di accedere a questa piattaforma interna e vedere il prezzo al quale è disponibile la banca a riacquistare questo titolo obbligazionario. Faccio un appunto: in questo momento il bond quota fra i 65 e i 67, bisogna tenere presente che chi ha acquistato questo titolo in fase di emissione, dall'emissione ad oggi, sono trascorsi quasi 8 anni, sono state incassate cedole per circa il 30%, per quindi, cui se si riuscisse a vendere questo titolo tra non si è perso poi molto, ecco. 70, non si subirebbe una grossa una perdita. Ecco. Perfetto, grazie a Matteo Trotta, l'ufficio studi di Consultic, vice direttore. Se sarà necessario più avanti ci torneremo su questo argomento, intanto abbiamo quantomeno dato qualche informazione utile, speriamo, a molti risparmiatori. Detto questo, Nicoletta, allora è tempo di mercati, una velocissima borsa, dopodiché tu parlerai di un tema oggi stradelicato, sì, molto perché delicato. Ci associamo al lavoro delle colleghe di Radio 24 che si stanno occupando con molte iniziative speciali di femminicidio, e anche noi vogliamo proprio condividere questo grande progetto di promozione ed educazione sociale della radio alla quale apparteniamo con questa puntata speciale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Eccoci tornati insieme in questa seconda parte del programma. Parliamo di femminicidio, una parola che non vorremmo ascoltare mai più e che invece è diventata tristemente popolare. Negli ultimi 12 anni 2000 donne italiane sono state uccise da partner o ex o mariti, e questo è uno dei dati che emerge dalla ricerca che Consuelo Corradi, prorettore dell'Università LUMSA, ha presentato nei giorni scorsi al Forum Mondiale di Sociologia che si è tenuto a Vienna. Però non dobbiamo dimenticarci che di fronte ai numeri e di fronte a dei fatti che fanno notizia ci sono poi tantissime situazioni che rimangono sotto soglia, mai denunciate, e che vedono donne costrette a subire umiliazioni fisiche ed emotive, avvinghiate in una relazione che invece dovrebbe dare loro dignità, identità, sicurezza e autostima. Come anticipato, noi seguiamo questo progetto delle colleghe di Radio 24 e quindi con Cuore Denari anche oggi insieme a Deborah vogliamo partecipare. E in linea abbiamo Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, che spesso ci affianca in questi percorsi in cui cerchiamo di entrare nel cuore di alcuni problemi così dolorosi che vorremmo evitarli, no? Quasi a disfarcene, che invece richiedono un'analisi attenta, soprattutto per individuare quegli aspetti su cui poter giocare un piano di prevenzione, perché la prevenzione parte anche da qui. Alberto, ciao intanto, grazie e benvenuto. Nicoletta, ciao Deborah, buongiorno a tutti. Buongiorno Alberto. Allora Alberto, cosa succede nella dinamica di una relazione uomo-donna che può sfociare nella violenza fino ad arrivare al femminicidio? Che cosa c'è che non va? Quali sono gli elementi, possiamo dire, patologici, Alberto? Ma direi che in una relazione di questo tipo, invece che cooperare, fare squadra, diventare da due uno in un progetto che è cooperativo e orientato al proprio benessere, in realtà si instaura una dinamica di potere dove una persona in qualche modo fa un colpo di stato all'interno della relazione dicendo: comando io, fa sentire l'altra persona un oggetto, qualcosa che ha poco valore, che deve obbedire. Spesso la prevaricazione è di tipo emotivo e psicologico e la persona vittima si adatta, si adegua progressivamente alle aspettative, e poi questa cosa fa un ulteriore salto di livello e dalla prevaricazione psicologica ed emotiva si passa alla vera e propria violenza fisica, in una rotta proprio di annientamento del sé, della persona, e dove uno non riesce più quasi a capire chi è, chi vorrebbe essere e soprattutto cosa può fare per uscire da una situazione così patologica. Allora, nello stile di Cuore Denari, insieme a Deborah, che cosa vogliamo fare? Che taglio vogliamo dare a questa trasmissione? Innanzitutto vogliamo invitarvi a parlarne. Potete farlo all'800 24 00 24, richiedere un aiuto, confrontarvi con Alberto Pellai, confrontarvi con le persone che ci stanno ascoltando, e nello stesso tempo, secondo lo stile di Cuore Denari, vogliamo puntare sulla prevenzione, perché si possono prevenire, si deve fare un grande lavoro di prevenzione. L'educazione sicuramente ha un ruolo importante, noi dobbiamo insegnare alle ragazze, alle nostre bambine, che un amore non può essere violento, non c'è amore dove c'è prevaricazione, c'è violenza, ma dobbiamo anche insegnare ai figli, ai maschi, che cosa significa amare una donna. E a questo proposito vi vogliamo linkare sulla nostra pagina di Cuore Denari un articolo che proprio Alberto Pellai ha preparato per i genitori. Alberto, quindi non basta dire alle donne e alle ragazze, crescere le ragazze, attenzione, proteggiti, individua questi segnali, bisogna anche crescere degli uomini che sappiano che cosa significa amare e rispettare una donna. Sì, perché in un femminicidio chiaramente c'è una donna che è vittima, c'è però anche un uomo che è aggressore carnefice, un uomo che molto probabilmente nel suo percorso di formazione, di crescita, nella relazione educativa con gli adulti di riferimento non ha imparato a tollerare la frustrazione, a rispettare il no delle altre persone, a definire qual è il confine in una relazione che non può essere oltrepassato, e tutti questi sono messaggi che dobbiamo mettere al centro della relazione educativa anche con i nostri figli maschi. Un ascoltatore ci scrive che il femminicidio non esiste e che il reato è omicidio, punto. Ma credo che questo è un dibattito, tra l'altro, che si è molto anche acceso intorno al tema dell'educazione di genere e alla logica che ci staremmo inventando tutta una serie di problemi che non ci sono, ma io credo che invece parlare di femminicidio e aver inventato il reato di femminicidio significa che non solo c'è un omicidio, ma che c'è un omicidio che, in quanto coinvolgente una femmina e una donna che in una storia di amore in realtà invece che essere protetta viene aggredito, prevede una serie di aggravanti e ci fa riflettere anche su una serie di aspetti del nostro contesto socioculturale, stereotipi di genere che non possono essere trascurati. Quindi attenzionare l'omicidio di una donna in famiglia con il termine femminicidio e identificare una nuova tipologia di reato, credo che sia proprio una cosa importantissima in questo momento. È una storia di violenza familiare al limite del femminicidio, è quella che viene raccontata in un romanzo che è uscito da poco, che ha generato molta attenzione, molto dibattito. È un romanzo che si legge tutto d'un fiato e che in realtà lascia senza fiato. La sua autrice è in linea con noi, diamo il benvenuto a Sara Rattaro. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno e grazie. Il titolo del libro è Splendi più che puoi, edito da Garzanti. Prima di parlare con Sara vorrei farvi ascoltare un breve estratto. Andiamo. Salì in camera con lui. Fu lì la prima volta. Quella di cui ogni donna potrebbe parlare in eterno, perché, anche se il livido passa, la ferita è destinata a rimanere. Lo fece con il bastone dell'ombrellone da spiaggia che avevo scelto proprio io, sulle gambe e sulla testa, senza spiegazione e senza motivo. Rimasi a terra. Soffocavo le lacrime nell'incredulità. Poi il suo sguardo su di me, la paura che non fosse finita. Lui in piedi, dominante, io a terra in difesa. La linea sottile delle cose inspiegabili. Abbiamo sentito un breve estratto di Splendi più che puoi, di Sara Rattaro, letto da Alessandra De Luca, no? la nostra speaker, che ringraziamo e salutiamo. Che conferisce sempre grande intensità, soprattutto a queste letture un po' delicate, direi. Il titolo del romanzo racconta una storia di violenza familiare molto intensa, altrettanto dolorosa. Una storia vera, Sara, nonostante il formato del romanzo. Sì, una storia vera. È arrivato l'incontro con una persona che appunto ha avuto voglia di raccontarmi la sua storia e io ho trovato subito la storia giusta, no? Perché in effetti siamo molto abituati a parlare di femminicidio, cioè di violenza di genere, quando ormai parliamo già di femminicidio, e invece questa signora forse mi stava raccontando qualcosa di diverso, ovvero una storia difficilissima, dolorosissima, che poteva essere davvero drammaticissima, e in realtà lei era davanti a me ed era splendente, no? E quindi ho capito che questo caso poteva essere un modo per evitare di fare solo intrattenimento con la scrittura, ma di raccontare, certo, una storia che forse potesse avere un senso. Alberto, nel momento in cui si inizia a raccontare, si mette già fuori un piede dalla gabbia? Credo che questo sia proprio uno dei problemi grandi che hanno spesso molte donne che poi rimangono intrappolate, sentono di non riuscire a parlarne con nessuno, ed è quello che spesso che succede in realtà anche alla protagonista del romanzo di Sara Rattaro. In tutta la prima parte rimane intrappolata nel suo mistero, in parte viene anche imprigionata dal suo compagno, ma poi sente una vergogna profondissima nel chiedere aiuto, perché le sembra un po' di raccontare, nel momento in cui prova a chiedere aiuto, anche il proprio fallimento. Certo. E rimane anche costantemente lì intrappolata nella relazione, sperando di cambiarla. Invece provare a dare parola al proprio disagio, al proprio dolore, alla propria fatica, raccontare i fatti di cui si è protagonisti a persone che ci possono aiutare, è in assoluto la prima mossa per potersi poi mettere in salvo. Sara, ascoltando la storia della donna che si è raccontata a te, una donna tra l'altro colta, molto competente, di successo anche nel mondo del lavoro, hai capito da donna quali sono le fragilità che in modo quasi inspiegabile portano a trovarsi incastrati in questa situazione così autolesiva? Guarda, io quello che ho compreso è che da fuori è molto difficile farsi una comprensione, una ragione, e soprattutto bisognerebbe sempre evitare il giudizio, nel certo. senso che un motivo c'è. Cioè, nessuna donna si cerca la violenza, nessuna donna sta bene in una situazione di violenza. Il fatto che ci sia, e spesso ci sia per un tempo così lungo, significa che un motivo c'è. È ovvio che da fuori per noi sembra inimmaginabile poter essere private, no, di quella che chiamiamo libertà, da un momento all'altro, quindi immaginiamo che no, noi reagiremo, noi faremo, noi sapremo cosa fare. In realtà persone che ci assomigliano moltissimo, e questa è una donna, come hai detto tu, normale, no? Una donna che gode della vita, che potrebbe godere della vita, che ha una cultura, che ha le possibilità economiche, si ritrova là, in quel piccolo buio cieco, e con dei tempi, con un tempo suo molto personale, che dipende da tantissime cose, dalla situazione, dal potere economico, certo. da quello che hai, dalla rete che hai, da come sei arrivata lì, da quello che è la tua forza poi realmente interiore, e ha bisogno di questo tempo appunto per arrivare e riuscire a denunciare, perché poi la vergogna, come dicevamo, certo. è il sentimento peggiore che abbiamo, il sentimento che pubblico ti intrappola. Che ci intrappola, quindi denunciare è qualcosa di molto coraggioso e di molto come ha quindi fatto. Io quello che ho compreso è proprio questo, cioè un motivo c'è sempre, non dobbiamo dire ma perché sei stata lì, ma perché non ti sei liberata, perché è come se noi ipotizzassimo che a questa persona tutto sommato piacesse il regime di violenza. Impossibile, nessuna donna è fatta per essere picchiata. Sabrina scrive: brividi al pensiero del passato, ma l'ho denunciato, ha fatto 5 anni di carcere, adesso sono rinata. Mamma, allora 800 24 00 24, se volete chiamarci, se avete una storia da raccontare, magari non qualcosa di cui siete stati protagonisti in prima persona, ma qualcosa che vi è stato raccontato. Sara, nel tuo libro scrivi che la discesa non è mai precipitosa, no? Si inizia sempre con un piccolo passo verso il basso. In effetti nelle relazioni malate molto spesso l'esordio del problema non è mai qualcosa di eclatante. Noi abbiamo scelto di estrapolare dal libro questa scena, no? In cui la donna veniva picchiata, no? dal maschio, dal suo compagno, con il bastone dell'ombrellone da spiaggia. Però si inizia con qualcosa di piccolo, un piccolo slivellamento dal territorio della normalità, da cui giorno dopo giorno si instaura una voragine. Assolutamente sì, io quello che ho compreso poi ascoltando questa storia e anche tutte le altre che inevitabilmente mi sono arrivate vicine, che su cui mi sono anche documentata, ho compreso che l'obiettivo di queste persone, che ovviamente non sono persone forti, no? Le persone violente sono persone profondamente irrisolte con grossissime problematiche, è quello di isolare la propria vittima. E l'isolamento non arriva immediatamente con, diciamo, la parte di violenza fisica, ma viene con tutto un processo psicologico che è appunto portato a isolare la vittima. Quindi prima c'è il denigrare la persona, quindi sostenere che questa persona è incapace, non riesce a fare niente, non è capace sul lavoro, non è capace in casa. Poi denigrare la propria rete e quindi incominciare a dire che i genitori non sono affidabili, gli amici sfruttano. Fare il vuoto intorno alla vittima. A quel punto questo è l'obiettivo, per poi essere, come dire, ancora più dominanti. E questo modello, è simile, è un denominatore delle storie. Andiamo a fare una breve interruzione per le informazioni sul traffico, ritorniamo subito dopo insieme con Alberto Pellai e Sara Rattaro, tra poco. Cuore e denari. Ecco, siamo tornati insieme, riprendiamo il passo. In linea con noi abbiamo Alberto Pellai, Sara Rattaro, parliamo di donne, focalizzandoci su situazioni e rapporti che la ricerca considera ad alto rischio, e prendiamo spunto dal libro di Sara Rattaro, Splendi più che puoi, che racconta una storia vera di questo tipo, e la commentiamo con Alberto, psicoterapeuta, ricercatore all'Università di Milano. Ci uniamo a questo bel progetto delle donne di Radio 24, no? E le colleghe infatti faranno questo viaggio radiofonico che inizia oggi fino alla fine del mese. Sara, nel tuo romanzo tu proponi al termine di ogni capitolo un errore tipico che alcune donne fanno nella loro relazione amorosa e che poi le porta ad intraprendere il percorso della vittimizzazione. Noi li abbiamo riuniti tutti, alcuni di questi errori, in un file audio che andiamo ad ascoltare insieme. Primo errore: pensare di essere sbagliata. Secondo errore: sforzarmi di volergli bene. Terzo errore: pensare di avere la situazione sotto controllo. Essere accondiscendenti è solo un modo per prolungare l'agonia. Quarto errore: pensare di essere l'unica persona che può aiutare qualcuno a risolvere i suoi problemi. Quinto errore: pensare che in una guerra la pietà venga premiata. Alberto, metteremo naturalmente questi errori sulle nostre pagine, ma c'è un filo rosso in tutti questi errori che abbiamo appena ascoltato? Il filo rosso è che una donna in questa situazione che diventa progressiva e sempre più grave, in realtà non riesce più a guardare le cose con oggettività, cioè se si sentisse raccontare da un'amica, da una collega, quello che le sta succedendo e lo guardasse da fuori, immediatamente probabilmente riuscirebbe a dire: ma tu sei in una situazione pericolosissima e ti devi mettere in salvo. Guardandola invece in soggettiva, quello che succede nella mente della donna spesso è quella di provare a pensare che forse c'è qualcosa che lei non sta facendo bene, non sta capendo bene in quella situazione, c'è qualcosa che lei potrebbe fare per migliorare la situazione, quindi non riesce a vedere la realtà in modo oggettivo, e in quella violenza in cui si trova coinvolta, invece che dare il nome di violenza alla violenza, dà invece vari nomi a se stessa: non sono brava abbastanza, non sono paziente abbastanza. Cioè spostano il problema, vero Alberto? Invece esatto, che sull'altro, su di sé. Quella tipologia un po' di passività obbediente, sindrome della croce rossina, con cui spesso una ragazza o una donna pensa di entrare in una relazione molto difficile, faticosa e pericolosa, e di poter quasi un po' dare con la propria pazienza e competenza la svolta e cambiare l'altra persona. Sindrome della croce rossina, no? Sara, quanto ha pesato nella storia della donna protagonista del tuo romanzo questo atteggiamento? No? Immagino anche che molte donne ti scrivano dopo aver letto il tuo libro, tu hai anche un blog. Quante ti raccontano che la loro generosità, la loro disponibilità, il loro, no, essere magari comprensive, aspettare, mettersi un po' in discussione, alla fine si è trasformato in un boomerang che ha rovinato la loro vita? Tante, io ricevo tantissime email di persone che si riconoscono, no, se non in tutta la storia, in tutto il calvario, almeno in una parte di essa. In realtà questa storia parla un po' di tutte noi. nel senso che siamo tutte educate in questo modo, cresciamo tutte con questo monito terribile del non andarsela a cercare, altrimenti se succede qualcosa la colpa è più nostra, no? Che di chi ci fa del male, perché si tende a fare il processo alla vittima e non al carnefice, come abbiamo detto, si sposta il problema su chi invece dovrebbe essere aiutato. Gli errori messi in fila così raccontano la nostra educazione. Noi siamo educate a occuparci delle debolezze degli altri. Lui non doveva alzare le mani, sì, ma tu non dovevi provocarlo. Cioè, questa è una frase drammatica, terribile, che a noi suona completamente normale. Cioè, è normale sentirsi dire una cosa del genere, invece stiamo parlando di due piani completamente diversi. Cioè, un conto è dire una cosa e mancare di rispetto, un conto è alzare le mani. Cioè, è sempre un lei avrebbe dovuto portarsi in salvo, lei avrebbe dovuto non farci dei figli, lei avrebbe dovuto, no, lui non avrebbe dovuto alzare le mani prima. Poi andiamo a fare altri discorsi sulle persone, sulla sociologia, eccetera, eccetera. Però siamo abituate a ragionare così, siamo abituate a essere pazienti, siamo abituate ad essere accondiscendenti, a prevedere quello che può dare fastidio e quindi a non farlo, no? Allora, anticipiamo le certo morte. Io allora adesso oggi ci occupiamo di femminicidio, parliamo di questo tema che, no, più che un tema è un vero problema. Adesso chiamatelo, dategli il nome che volete. Arrivano anche molti messaggi, Alberto, sull'altro, no? Sull'altra responsabilità o anche per tutelare i maschi. Ad esempio, l'educazione vale anche per la femmina che spesso logora psicologicamente il maschio con continui soprusi verbali. È un po', come diceva Sara, è un po' la donna che a volte va a cercarsela, no? Leggo un po' da questo SMS. Alberto, se una donna all'ascolto si ritrova a riconoscere a riconoscersi in questa situazione, quali passi concreti può fare? Ma io direi la prima cosa è parlarne, scegliere proprio una persona di cui si fida, una persona da cui è stata aiutata magari in altre situazioni difficili, e raccontare i fatti, cioè dire esattamente che cosa mi sta succedendo e se c'è stata violenza, cioè se dentro una relazione affettiva qualcuno ha proprio usato le mani, la forza fisica, la violenza, sentire profondamente che questa è una cosa inaccettabile, che necessita di essere fermata, ci deve essere proprio stabilito un confine. Averlo raccontato a qualcuno significa già aver fatto un primo passo, cioè aver scritto un primo pezzo della propria storia di cambiamento, e su questo passaggio il secondo livello deve essere la richiesta di aiuto, deve essere portata in un luogo dove ci sono specialisti che possono aiutare la donna. Il primo passaggio potrebbe essere il medico di famiglia oppure uno specialista del consultorio familiare, oppure attraverso Google andare alla ricerca del centro antiviolenza aperto alle donne più vicino alla propria residenza, a cui provare a fare il racconto e la narrazione della propria situazione. Io vorrei chiudere questa nostra riflessione, che poi le colleghe continueranno e anche altre trasmissioni, vero Deborah? Sì. Magari con prenderei come messaggio il titolo del libro di Sara Rattaro, Splendi più che puoi. Tu, Sara, lo hai scelto quasi in contrasto con la storia buia e cupissima che hai raccontato, perché proprio questo titolo e soprattutto che messaggio vorresti che comunicasse alle donne all'ascolto? Chiudiamo con, no? Con la luce, con Sì, perché questa è una storia cupa, difficile, molto molto attuale, ma è una storia di speranza. Cioè, io Emma l'avevo davanti, io Emma la conosco ora, Emma è un'amica, Emma ha una vita, Emma è padrona delle proprie scelte e della propria vita, di quello che vuol fare, che non significa che le capitano solo cose meravigliose, ma semplicemente che fa quello che speriamo che auguriamo a tutti quelli che amiamo, ecco, quello che dobbiamo augurare noi stessi. Quindi splendi più che puoi, cioè è un ritorno allo splendore. Cioè, questo è un libro che attraversa la violenza. Io non ho fatto sconti, perché credo che bisogna parlarne per sapere esattamente di che cosa è, di che gravità è il problema, e soprattutto perché più ne parliamo meno questa cosa ci fa paura. Però è un romanzo che racconta una rinascita, quindi in realtà è un romanzo molto positivo, ecco. Alberto, ci stanno scrivendo via WhatsApp delle amiche, l'ultimo messaggio è di un'amica che sottolinea tutti i passaggi elencati, li ho fatti tutti in questi ultimi 14 anni. Ci sono delle storie lunghissime, Alberto. Sì, direi che comunque non spaventiamoci rispetto al fatto che magari ci troviamo incastrati o intrappolati da lungo tempo in una situazione così grave, perché poi effettivamente la rinascita, anche come racconta Sara nel suo romanzo, che per esempio potremmo consigliare alle ascoltatrici di leggere, è proprio già un percorso di resilienza alla lettura. Ecco, fatto il primo passo, poi probabilmente la possibilità di venirne fuori molto velocemente diventa fattibile, possibile e concreta. Grazie a Sara Rattara, ad Alberto Pellai, grazie per il vostro ascolto. Noi siamo qui, come dire, no? Deborah, per le amiche all'ascolto. Esattamente, potete raggiungerci. A raccogliere anche, se volete, le vostre testimonianze, le custodiremo gelosamente. Se volete, vi accompagniamo con il primo passo. Grazie, a domani.